c'è qualcuno sul 10? Attenzione 10, c'è qualcuno all'ascolto? Attenzione 10, c'è qualcuno all'ascolto? Avanti Cristian! Vieni avanti l'amico! Dove sei? Non sono all'albergo, devo tornare a casa. Cristian da sua parte. Ho capito che sei Cristian, dai. Ho capito come hai fatto, come sei entrato, dai. Come mi ascolti? Chiama di profagazione, che non si comprende nulla. Ho detto, c'è molta propagazione. Come mai anche la tua madre eri? Cristian, da tuo padre eri? Propagazione, quella che io non può, Non ho capito niente, c'è un po' di propagazione. Te lo posso immaginare. Ma perché non te lo metti un lineare ma? Sì, sono stato dell'agentiera io. A me come mi ascolti, Cristian? Come si va? Cristian? Ho paura al microfono. Se non riesco, ho paura al microfono, al cavo. No, già stai uscendo adesso. Come mi ascolti a me, Cristian, con la zona? Chiaro, recuperato, perfetto. Ciao, gara. Dove sei adesso? Sono testa dell'agentiera. Ah, ho capito. Ma stai tornando? Sì, sì, sto andando a Sassari. Sì. Mio padre sta, grazie a Dio, bene. Non ho capito chi. Tuo padre? Sta, grazie a Dio, bene. Ah, l'hanno diviso? No, ancora no. Stanno dando l'alimentazione, adesso però piano a pezzi. E stanno riducendo a mare. No, ho capito, meglio così. E poi già recuperato tutto quanto, andiamo da quello. Vabbè. Almeno lui, io non sto bene, dai. C'ho sempre questa gamba che mi sta dando problemi, dolori dell'altro mondo, sto piccando con la stampella. Allora siamo in due oggi, che questo uomo è quel giorno che ho bloccato. Il dato bloccato, quello operato con tutto il menisco. Ti hanno operato? Sì, a me sì, ma no, tanti anni fa, c'è col caso. No, ma io secondo me sono dolori reumatici, perché ho fatto le lastre, tutto quanto non c'è niente. Fatti comprare, fatti fare una mocca a vedere. Sì, dovrei fare la risonanza magnetica, ma ci passano 2 anni per fartela, lui casino, Non ce l'hai posti. Lì ci vorrebbe più una mocca, a vedere come sta andando la reumatosi. Io vabbè. Speriamo bene, speriamo che mi passi perché non riesco più a camminare. Io ti ho avuto il cuore, te lo sai. Gli amici sono amici, non si toccano, come fratelli. Chi è avanti? Chi è che vuole entrare? Vabbè. C'è sempre qualcuno all'ascolto e non entrano. Sì, guarda, io sto uscendo. Scusa, mette la portante e uno che è in macchina, bubu, vabbè dai. Adesso. Sei ma c'era una portante che ti colpiva. Ma no, non credo, ma è che guaccio. Senti questi bubuni con uno che è in macchina con chi corva. Dai. Pablo Cristian, dai. Ti saluto, non ci sono problemi. Tanto guarda, ho acceso luci dopo tanto tempo, ma visto considerato che non si può più da. Chiudo e faccio altro. Grazie. In gamba, siete più. Ciao Cristian, stammi bene. Avanti, giocati con la macchinetta della BP. Ah,